Thank you. Io mi sento dopo il bella e fai la corrivi, ma non trovare. Thank you. Vi chiamerò entrare. Sua Eccellenza una domanda sola. Eccellenza, il signore che della polizia l'assassino dov'è? Non cadde ancora il nostro ramano, il conte non proferiva un nome, neppure il nome mio avea qualche nemico. E lui, giusto c'era, e chi? Vuoi interrogare i servi nell'altra stanza? No, restate qui. Scrivete. Slitta. Parla, parla, parla. Egli disse, andiamo al tiro. Andammo, attesi un quarto d'ora. Subitamente nel gran silenzio sangue spari. Ascolto. Nulla. Più nulla, tranne lunghi latrati. Oh mio stupore! Forse innato spinto cancello, corre a sindacco, tramisano non seppi. E poi, quel buon correndo, avea lasciato sulla neve stille di sangue. Come per io prego mio volte salvo qua e la pregosa madre di Dio ne prego in vano. Ecco una slitta. Io chiamo, chiamo, era il Signore. Dica il resto, io più non posso. Oh, padrone mio! Così adunque, signore, voleva chiedermi qui da un padiglione solitario. Saliamo, lordo di sangue giace il conte. Dove a quest'arma impugnò? A terra stava.

guardi, quelle ombre che si inseguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo! Le ombre si sono riunite. L'ho preso. Signora. Thank you. essa ci fa che non vir. Uno porta la sua croce. Vedete, anch'io è un talismano. In questa antica croce erano mia reliquia. Io vi deposi un farmaco e sono di malo. Per voi o per gli amici? Chi lo sa? Grazie, grazie. la Russia. Partito. A mezzanotte. Domani. Poi verremo allora. Entro bordo. Addio, addio. Domani, qui stesso. Stanotte, rispondi.